Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi amari! 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Questa cosa delle sì. Mie mamme la dico a domenica live, si spacca, dico spacca. Tante erano le mamme e che faccio, una burgio compadio perché? Ma fa cagare, fa il 3% ma no, ma non è vero, la dico prima di Nino D'Angelo così non solo mi votano le neomamme ma così poi mi votano anche i neomelodici. E ora pubblicità, a tra poco, con altre meravigliose promesse a cazzo. Vabbè, Crozza lo vede così il Matteo Renzi Premier ieri a Di Martedì. Maurizio Crozza, iniziamo con un sorriso questa giornata alle 6.32 minuti con 24 mattino che riparte con il numero per i vostri messaggi che è il 349-238-6666. Se volete scriverci, siamo qui. Tanto ieri siamo andati a letto presto perché insomma che imbarcata ha preso la Roma. Mamma mia ragazzi, amici della Roma, tifosi della Roma, dai, vi risolleverete spero in campionato contro la Juve. Questo è l'obiettivo della Roma, vincere il campionato, forza Roma, lo dico con tutto il cuore. E per il resto che dobbiamo dire? Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Bescapè è in regia, anzi Luca Nespoli per Paola Saluzzi, Luca Nespoli. Buongiorno a tutti, stamattina vi ho detto buongiorno, sta nascendo un amore, ma no, è un hipster con la barba lui, quindi... Ma per cortesia, la prego Milan, non dica così, cioè non dica, va benissimo la però barba, devo, io volevo dirvi... Devo svelarti un segreto, non so se questo... Però guarda uomini e donne... E questo non è un difetto, insomma, voglio dire, no? Non è assolutamente un difetto. Io volevo invece dirvi che da ieri sera a Roma c'è un silenzio. Mamma mia. Ma c'è un silenzio in giro, ma c'è un silenzio. Mamma mia. Che non si sentiva così. Che imbarcata, so che imbarcata. Vabbè, pazienza, 7-1. Sofferenza pura. Ma la Champions è lunga, Va bene, comunque, apriamo il Parlamento, che così salutiamo anche il nostro direttorone. Che è? Ah, mamma mia, metti sotto venditti. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Noi, grazie. Allora, Luca Dini, buongiorno. Super Luca. Buongiorno. Direttore di Vanity Fair, oggi in edicola. Allora, come va? Tutto a posto? Sì, guarda, è buio, è a Milano, inizia la stagione del lungo buio a quest'ora, po' come in Islanda nelle stagioni sbagliate, più o meno. Ti è venuta voglia di fare un figlio dopo l'annuncio di Renzi magari? Sono un po' fuori tempo massimo, anche fuori reddito magari, però però però io non l'ho trovato così terribile. Non l'hai trovato così terribile? No, vabbè, ma infatti, ma qua si sta discutendo da qualche giorno se sia una cosa giusta, positiva, no? Io ho il sospetto che a colpi di 80 euro, che non fanno schifo, non fanno schifo per chi riprenderà, le cose non è che si risolvono. Cioè, la sensazione è sempre che l'Italia insegua un po' queste formule, un po' così, un po' improvvisate. Non so, tu Paola che ma ne pensi? Permetto di dire no, perché no. Se andiamo a vedere gli altri paesi d'Europa, il bonus per le mamme esiste. Ma più strutturale magari. Cioè Renzi si è svegliato e ha detto questa bisogna cosa. Bisogna iniziare. Allora cominciamo a dare, ma detto così poi sembra che uno voglio fare il tifo a tutti i costi. Allora, ma no, bisogna ma tu puoi partire dire quello che vuoi, dal primo mattone. Bisogna partire dal primo mattone. Allora, il problema è che nessuno ci abbia pensato prima. Il problema è che non sia stato messo in regola, diciamo così, un bonus per le mamme e quindi di conseguenza per le neofamiglie, come si fa in tutti appunto, gli altri paesi appunto, d'Europa. Ma che sia stabile, cioè non è che il prossimo presidente del Consiglio dice ah, i soldi non sono più. No, perché lo vedremo chiaramente dal prossimo presidente del Consiglio, per carità. Magari lo si fa diventare legge, tempo. Magari, perché no. Magari, perché no. Ma perché no? Però dimmi. È vero che in un paese, diciamo, teoricamente cattolico, eccetera, eccetera, nessuno ha mai fatto niente per le famiglie. È incredibile. No, infatti non c'è mai stato il quoziente familiare, cosiddetto, un welfare niente. Per le famiglie non c'è, ma è questo che io dico, va bene che uno si svegli e dica vediamo 80 euro, però dovrebbe essere una cosa dire lo Stato garantisce 80 euro sempre, da oggi, per sempre si trovano le risorse, perché stiamo dalla parte delle famiglie, del fare i bambini e tutto questo va bene. La sensazione è che sia una cosa che chissà se tra 3 anni ci sarà, ecco, questo è il mio dubbio sul fatto che le cose... Intanto prenditi. Ah, sì, io no. Tra tre anni però ci saranno le mamme che votano, Ci saranno le persone che al di là del voto chiederanno ragione di una legge che nel frattempo si sarà dovuta Io pensavo al contrario, che pensavo che accusavi di colpo di essere uno spot, di aver fatto uno spot elettorale. Non è uno spot. Secondo me, perché bisogna iniziare un percorso. E sono stati iniziati tanti in questi giorni, voglio dire. È chiaro che poi spetta alle mamme, tutte, anche quelle che stanno sopra il reddito, come dire, sarebbe meraviglioso, andare a invadere di passeggini la piazza di Montecitorio e chiedere poi che tutto questo fra 3 anni o anche prima, diciamo anche molto prima, diventi una legge. Va bene, Massimo. Faremo anche i bambini. Faremo anche i bambini, sì, di tre anni. Sì, che forse sarebbero più saggi di tanto. Ci scrive un ascoltatore che Berlusconi aveva fatto il bonus bebè, ma anche Maroni, credo, aveva fatto il bonus bebè quando era ministro della guerra. Politica, senza colore, la politica ci ha sempre pensato, però poi non l'ha fatta diventare una cosa strutturale. Allora, deve diventare una cosa strutturale, punto. In Germania. Perché se no diventiamo un paese per vecchi, No, poi dice non si fanno più figli in Italia, fai i figli quando ti costano giustamente l'era di Dio, e c'è gente coraggiosissima che continua a farli i figli e non si pone il problema di dove li metto, in che stanza li sistemo. Scrive il tuo amore Massimo, buongiorno alla donna dei miei sogni, buongiorno Massimo, ti invidio, buongiorno. Ale, ma non è che ce l'ho qua, non è che mi invidio, non è qua in studio, è comoda a casa sua, capiterà. Quindi invidiami Massimo, ma certo ho il numero di telefono di Paola Saluzzi, ma insomma dietro l'auto compensa di un 100-150 euro si può anche rivedere. Ma lei è un mostro, Lino Milan, lei è un mostro, ha ragione Forchielli, sì. Però faccio così, do le cifre sparpagliate, poi dopo Massimo deve cercare di ricomporle, quella del cellulare di Paola Saluzzi. Va bene, allora, oggi i giornali sono abbastanza noiosi, Renzi è andato da Napolitano, ha parlato, non c'è la bollinatura, tu sai cos'è la bollinatura, Luca Dini? La ragioneria dello Stato deve bollinare la legge di stabilità, cioè far capire che ci sono i soldi, che è tutto a posto, che ci sono le coperture, e invece è arrivata sul tavolo del Quirinale senza questa bollinatura, e allora pare che Napolitano abbia detto oibò, come faccio io a capire se questa legge di stabilità ha tutte le coperture finanziarie, ma insomma sono cose che si risolveranno, chi lo sa, nel giro di 2 giorni. Ma, cara Paola Saluzzi, ti voglio sottoporre un soggetto che trovo in prima pagina della Stampa. Eccolo qua, è un parroco di Gesico, in provincia di Cagliari, che ha affisso sul portone della chiesa il disegno di una donna con la gonna al ginocchio, e a fianco il disegno di una donna, sempre la stessa donna, con la gonna invece un po' più su, una minigonna, con una bella X. Cioè è chiaro come si entra in chiesa? La gonna deve arrivare a toccare il ginocchio, non costringete il parroco a cacciarvi. Ma veramente io vedo questo cartello sul affisso sì. Al portone di San Pietro da quando sono nata. Ecco, appunto. E no, allora? Ecco, cioè c'è lo stesso, addirittura un tempo si dava ai turisti un velo per coprire le spalle, no? Ma si dà ancora, Si dà ancora, si dà ancora. Sì, è una forma di rispetto, diciamo. No, perché la stampa lo mette in prima pagina con tanto gli articoli di Gramellini a dire, ma parroco, cioè c'è la chiesa che fa le aperture, eccetera, e tu parroco sì, fai certo, queste cose. Insomma, c'è ancora questo cartello comunque su certe chiese. Ecco, la chiesa fa le aperture, pur tuttavia no, magari non entrare in chiesa vestiti come Madonna ai tempi di Like a Virgin, sì, per dirla tutta, forse si può evitare. Sì. Fa le aperture. La donna sta un attimo su, vabbè, dai. Fa le aperture, tranne il Cardinal Ruini, che oggi sul Corriere della Sera fa un'intervista e dice, è vero, ammetto, non parlerò più di valori non negoziabili. Lui quando era presidente della CEI parlava così, ma sui gay la Chiesa non è in ritardo ma all'avanguardia. Non escludo che rifluisca questa ondata libertaria. Hai capito, caro Lucadini? Quando... Sì. Io devo dire che trovo più scandaloso il bullismo del vicepresidente del Senato, però insomma confronto Gasparri. Ma per carità. No, perché cosa vuol dire per carità? Cosa vuol dire? Voglio dire, ci scandalizziamo per la Chiesa fa il suo mestiere, cioè che può essere discusso e discutibile, però fa il suo mestiere. Ma Gasparri, il vicepresidente del Senato deve dare l'esempio, invece da un esempio pessimo. E che dovrebbe fare? Dimettersi. Oh, si dimetta il vicepresidente del Senato Gasparri, che ha insultato dicendo mettiti a dieta una fan di Fedez. Sentite, allora, visto che l'hai citato, uomo miserevole veramente. Ce l'abbiamo Fedez che risponde così. Ma io spero che la politica si inizi a occupare del paese e non di Fedez, che i problemi sono altri. Ma Gasparri cosa c'è da dire? Quello che ho detto prima, che a me non piace fare la lotta con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace. Accidenti, come lotta Fedez, Paola Saluzzi, ma che vediamo. Ma cosa stavo pensando, il grande Fedez. Non lotto con i maiali su X Factor, esatto, certo. Su X Factor, grande combattente su X Factor. Sai invece a cosa stavo pensando? Uno dice si dimetta Gasparri, no? Sì. Invece si è immesso all'interno del gruppo che in Europa fa sì che l'UKIP e il Movimento 5 Stelle e altre persone siano insieme, un deputato polacco, sì, del quale mi pregio di non voler pronunciare il nome. Perché non riusciresti mai. Io so già a chi pensi, non riusciresti mai. Avevano pronunciato più volte ieri. Forza, pronuncialo, abbi il coraggio. Non lo so, Alessandro, sono sincera. Ivaskiewicz, quale viene dal congresso della nuova destra della Polonia, sì. Questo partito ha un leader su cui ho voluto ignorare nome, cognome e soprattutto indirizzo. Il leader di questo partito ha detto, tra le frasi storiche, non esistono prove che Hitler fosse a conoscenza dell'Olocausto. È vero, ha detto questo. Ok. E invece il deputato ha detto che bisogna picchiare le proprie mogli, perché così stanno con i piedi per terra. Sì. Allora io ve lo dico anche alla radio. Meno male che ero fisicamente lontana da questo sacco di letame. Esatto. Meno male, perché giuro che avrei investito dei soldi in un paio di stivali a punta, poi li avrei dati via. Avrei investito i soldi in un paio di stivali a punta per fargli le tibie blu. Ah. Io ti faccio le tibie blu come i polli più pregiati di Francia. Ha anche aggiunto le tasse al tempo di Hitler erano più basse di oggi. Che male c'è a dirlo. Sei un sacco di letame. Anzi, no, non sei letame, perché il letame serve per concimare. Tu da morto inquini. Questi è Robert Ivaschievich. C'è anche questo all'Europarlamento. Che schifo. Ivaschievich, sì, esatto. Che schifo, esatto. Scusatemi, grazie, mi taccio. No, ma è giusto. No, bisogna dirle queste cose. Eccolo qua, è il deputato polacco oggi, ieri era sulla stampa, oggi il Fatto Quotidiano dedica a lui il deputato polacco sessista più a destra di Marine Le Pen. Esattamente, ha detto alla domanda: lei ha mai picchiato sua moglie? Personalmente non ricordo di averlo fatto, cioè neanche non l'ho fatto, non ricordo di averlo fatto, però sono sicuro che le botte aiuterebbero alcune a farle tornare coi piedi per terra. Questo ha dichiarato questo simpaticone, questo Robert Ivaschievich, europarlamentare. Poi ci lamentiamo della politica italiana. 24 mattino. Caro Milan, io vorrei dire a Radio 24, la radio costa! Voi siete la radio d'élite, non potete accettare certe cose, non lo potete fare! Ciao Milan, invece che proporre Free Rossella Brescia, io proporrei Free Maria Elena Boschi. Pensaci, ciao! Mi voglio riferire alle coppie di omosessuali che vogliono avere gli stessi diritti delle coppie normali. Se uno dei due è in grado di fare un bambino dopo 9 mesi come lo fa una donna, allora si possono sposare. Scusate, mi potete dire la differenza che c'è tra un Grillo che espelle, diciamo, i contestatori e un Renzi che va avanti col paraocchi dicendo appunto me ne vado da solo con le mie idee, al limite andrò a casa, e rottama i vecchi comunisti e i nuovi democristiani che non sono d'accordo con lui. Milan, ti volevo dire, fidati della volpe, fidati del tasso, ma non ti fidare di quelle col culo basso. Oh Milan, Milan, tu mi tradisci? Dici buongiorno Paola e invece vuoi la Rossella? Oh Milan, Milan, tu mi tradisci? No! Ma no, ma che c'entra? Ma io sono democratico, sono per tutte le belle donne, che c'entra? Ma certo, un harem, no, ma no, no, no, un harem, no, vabbè, no, ma no, quello perché Free Rossella Brescia, effettivamente ci siamo un po' fermati, ma vogliamo rilanciare. Continuiamo la nostra campagna. E ce la faremo a portare Rossella Brescia un giorno. Del tasso e del volte. Sì, sì. Allora, ieri succede questo in redazione. Devo dirvi questo. Lorenzo Nespoli mi avvicina in maniera cauta, arriva lì e mi dice: Alessandro, vieni ad ascoltare un attimo perché c'è un messaggio in segreteria che non so effettivamente cosa dobbiamo fare, se mandare. E io l'ho ascoltato e ho detto: ma mandiamolo in onda, non si offenderà mica nessuno. Era una poesia in rima baciata, un pochino così, un pochino, come dire, vabbè. Però avete sentito, cioè l'idea di molti di dire Luca Dini, fanno dei figli le coppie omosessuali? Abbastanza. Mi stava proprio qui. Vorrei chiedere all'ascoltatore se ha intenzione anche di chiedere il certificato di fertilità a tutte le donne che si devono sposare, voglio dire. Cioè, perché sposarsi significa dover fare dei figli, non so. Boh. Vabbè, secondo un'idea così un po'. No, sì, sembrava che parlasse di coniglie, onestamente. Esatto. No, di coniglie, o come si dice in termine più tecnico, perché noi diciamo mucche, ma invece si deve dire di vacche, no? Allora dice deve sgravare, forse può entrare nel gruppo. Non hanno figli, per esempio chi vi parla non ha figli, quindi caro signore che devo fare? Mi dica, non ho prodotto figli, quindi cosa vuole? Che faccio? Oggi la saluzza è così, guardate che cioè, no, no, era, sai chi era questo? Era Ivaschievich. Non era lui. Parla bene italiano. Parla bene, hai imparato l'italiano perché ovviamente. Adoro Luca Dini, vi adoro tutti e due. Io però, siccome uno mi ha scritto Free, cos'è che ha detto? Free Maria Elena Boschi. No, Maria Elena Boschi, no, è da un po' che non la sentiamo. Io voglio un attimo entrare. Dai, coi violini, fatemi sentire un po' la voce. Dai. Senti com'è. Gli altri anni la Leopolda è costata intorno ai 200.000 euro ad edizione, quindi anche quest'anno più o meno le cifre saranno simili, non certo 2 milioni di euro, e come ogni anno sarà autofinanziata attraverso offerte spontanee di chi Senti, ha voglia S, di partecipare come anche con 5-10 cioè, euro. Cioè capisci Lucadini, la S. Vabbè, comunque il dramma e il dubbio e la domanda che pongo a tutti i miei ospiti è il grande drammone. Voi sabato andrete in, andrete alla Leopolda, andrete in piazza con la CGIL o a una pizza? Io andrò all'esse lunga, probabilmente. All'esse lunga, così Lucadini. Tu, Paola Saluzzi, Leopolda, Lucadini, piazza Lucadini, o Lucadini pizza? For president. Io essendo a Roma, dovrei mettere il naso alla manifestazione, chiaramente in piazza. Ma un bel viaggio a Firenze me lo farei tanto volentieri. Un salto a Firenze, vabbè. Sì, tanto bello. La democristiana Paola Saluzzi. Ma mica tanto, da quello che ho detto. Ma, comunque sì, certo, perché? Ma perché deve essere un insulto poi? Ma che è un insulto? Però io qua, Vanity Fair, Kristen Stewart, non la conoscevo molto bene fino a questa mattina, ma adesso sì. Sempre i soliti 150 euro per passare i numeri di telefono, caro Lucadini, caro direttore. dovresti potremmo fare un business su questa cosa qua. potremmo fare un business. Che c'è Paola? C'è qualcosa che non va? Ho detto qualcosa che non voglio va. Voglio sapere di Vanity. Vabbè, niente, c'è la copertina, c'è Kristen Stewart che parla dopo 2 anni. Poi c'è. Ma cos'è? Avete messo il libro bomba di Valérie Trierweiler? Ma si vende questo? Ma è vero che in Francia viene boicottato ancora? Quello... Sì, assolutamente. Cioè ci sono librai che non lo vendono. Beh, sì, la Francia, insomma, cioè, comunque per la Francia parlare del presidente, insomma, è un tabù. Monsieur le Président. Non è come l'Italia. No, effettivamente qua sul bunga bunga abbiamo scoperto di tutto, ci siamo divertiti, invece lì c'è una protezione di questo tipo. E comunque trovate tutto su Vanity Fair, ma io vi devo salutare, mannaggia, e tu Paola Saluzzi che fai oggi alle 15? Vai in onda. Politica, free Paola Saluzzi, la politica, le bollinature della ragioneria dello Stato. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti e siamo qui noi. E voi, cari debosciati, amici miei, come state? Che state facendo? Ditecelo al 349-238-6666. E oggi parleremo di tasse. Lunedì mi ha molto colpito questa classifica del Sole 24 Ore che dice che in alcuni comuni si recupera l'80% delle tasse, non so, Reggio Emilia per esempio, in altri comuni, Vibo Valentia per esempio, si recupera il 45% delle tasse. E allora attraverso questa mappa d'Italia cercheremo di capire, perché poi parliamo del vostro portafogli, di quello che dovete tirar fuori, cari cittadini italiani, che razza di paese è quello in cui in alcune regioni, in alcuni comuni si riesce a recuperare il 90% mai di tasse, in alcuni ci si ferma al 40%. Avremo ospite il sindaco di Vibo Valentia, avremo ospite un assessore al bilancio a Biella, avremo ospite Luca Antonini, costituzionalista e presiede anche la commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Dalle 8:15. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani. Questo mercoledì 22 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: Caos IMU, regole riviste nell'85% dei comuni. Per il Corriere della Sera invece l'Unione Europea avverte l'Italia sul bilancio. Repubblica, Renzi, offerta a Grillo e sulla manovra dubbi di Colle e Unione Europea. Anche per la Stampa, Europa, dubbi sulla manovra. Così il Messaggero, dubbi sui conti, garanzie dall'IVA. Avvenire invece lancia l'idea di 340 economisti accademici a Renzi, l'Italia lanci ora la svolta d'Europa. Per il giornale Renzi si arrende ai PM, la non riforma di giustizia, mentre il Fatto Quotidiano lancia questo tema, Senato, firme falsificate per salvare il governo. Vedremo dopo di cosa si tratta. Libero invece in prima pagina per il secondo giorno consecutivo la storia di Carlo Cani, che alla Nuova Sardegna ha ammesso di avere non lavorato per 35 anni con finte malattie da minatore e poi essere arrivato alla pensione. Togliete la pensione al minatore per finta. È l'apertura di Libero. Per la verità anche la Stampa dedica mezza pagina a questo tema, dicendo che effettivamente ora questo Carlo Cani, Charlie Dogs, come si fa a chiamare lui, perché ama il jazz e quindi si è preso questo nome, Carlo Cani, Charlie Dogs, che ha detto in 35 anni mi sono fatto una serie di malattie inventate che voi non immaginate e ho pure la pensione, ebbene questa pensione ora la rischia. Il furbetto della pensione rischia l'assegno. Nicola Pinna racconta per la Stampa, è partita un'inchiesta dell'INPS. Su questo minatore che ha confessato di essersi inventato di tutto, amnesie, dolori, emorroidi, capitava di urtare la parete con un pollice e dicevo non posso lavorare con il pollice gonfio. Soprattutto la Stampa va a trovare i veri minatori, coloro come Sandro Mereu, che risale in quota a mezzogiorno e mezzo col caschetto in testa, la fronte grondante di sudore, guance annerite dalla polvere. Dice: questo sia il mio lavoro, faticoso ma orgoglioso di farlo. E quando hanno letto i giornali, ovviamente tutti i minatori si sono arrabbiati di brutto. Carlo Cani invece dice: i miei colleghi si facevano un mazzo così, ma questo lavoro non faceva per me. Ora però rischia l'assegno dopo una inchiesta aperta dall'INPS. Però parlando di scuola, che è un tema sempre molto caro perché riguarda poi il futuro dei nostri figli, mi ha molto colpito negativamente la storia che Riccardo Luna su Repubblica scrive a pagina 25. Pensate un po', niente web anche se è gratis. È la denuncia di un fisico, si chiama Enzo Valente, è uno dei pionieri di Internet. Oggi è a capo del GAR, cioè il consorzio che gestisce la super rete in fibra ottica della ricerca scientifica in Italia. Roba seria, dice lui, fino a 1000 volte più veloce di quello che avete in casa. Dice questo: ho trovato i fondi per dare gratis a 220 scuole del sud, la banda larga. Ho scritto a tutti i presidi, mi hanno risposto in 40 che hanno accettato, gli altri no, anzi 260 sono i presidi ai quali ho scritto, 40 mi hanno risposto, gli altri 220 non accettano la banda larga gratis. E lui dice a Repubblica: non ci posso credere, io non capisco. Collegarsi a internet con una rete super veloce può cambiare profondamente la didattica e l'offerta formativa, vuol dire portare la scuola nel futuro. Come se ne fa a non capirlo? Ma i genitori degli studenti lo sanno che le scuole dei loro figli ci hanno ignorato? Credo proprio di no. E racconta questa storia: il progetto vuole agganciare gli istituti alla connessione a banda larga usata dai ricercatori, ma solo 40 presidi hanno accettato la proposta, 220 di queste scuole del sud non hanno neppure risposto. È una storia denunciata da Repubblica, messa anche in prima pagina con il racconto di Riccardo Luna. Veniamo a quegli articoli che ci fanno un pochino arrabbiare, anche se questo. Allora, sappiate che in Sicilia l'Assemblea regionale siciliana, per evitare degli sprechi, hanno codificato tutto e hanno messo per iscritto ciò che sono le regalie, i doni che i deputati possono fare Risultato: fiori, regali, cene di lavoro, Sicilia, i deputati graduati si alzano il budget di spesa. Pagina 7 del Messaggero. Libertà di fare a spese della regione, dunque soldi nostri. Necrologi, fiori, regali vari per una ventina di deputati regionali siciliani, senza dover chiedere autorizzazioni, senza il rischio di incorrere in contestazione da parte della Corte dei Conti. Lo ha stabilito il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea, che lo scorso 28 luglio ha concesso un plafond da 7.000 a 15.000 euro l'anno a testa per le spese di rappresentanza, oltre che per presidente, vicepresidente, deputati questori, deputati segretari, presidenti di commissione, segretario generale, a tutti questi. E quindi maglie larghe, gli atti di cortesia, piccoli doni, targhe, medaglie, libri, coppe, inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzione su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, gli atti di onoranza, necrologi, fiori, tutto a spese entro i 15.000 euro, plafond senza giustificazioni. Ale, Ale. Intanto fa sapere il Corriere della Sera, visto che siamo in rassegna stampa e parliamo di giornali, che l'Unità risorgerà tra qualche mese. Il PD fa rivivere l'Unità e punta ai fondi degli ex DS. Maria Teresa Meli racconta, pagina 8, che tra qualche mese l'Unità, che aveva sospeso ad agosto le uscite, tornerà in edicola. È stato decisivo l'apporto finanziario di Guido Veneziani. Guido Veneziani, nome sconosciuto all'editoria politica ma ben conosciuto nell'editoria di altro tipo, è l'editore di riviste come Vero, Stop, Top, nomi che magari, scrive il Corriere, faranno arricciare il naso a qualcuno ma consentiranno con i suoi 10 milioni di euro al quotidiano fondato da Antonio Gramsci di riprendere le pubblicazioni di qui a qualche mese. L'offerta verrà fatta entro il 31 ottobre, ossia tra pochi giorni, e il tesoriere del PD, Francesco Bonifazi, ha però annunciato che la redazione sarà ridotta. Comunque l'Unità tornerà in edicola. Ma eccoci qui, siamo al momento del premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più pensare di questa giornata, ed è un articolo che riguarda una ragazza che già era diventata protagonista, suo malgrado, di accuse furenti la scorsa estate. Non so se vi ricordate di Caterina Simonsen, ragazza padovana di 26 anni, studentessa di veterinaria, costretta da una malattia genetica rara a stare attaccata 20 ore al giorno a un respiratore e prendere un mix di 30 medicine. Lei allora disse: grazie anche alla sperimentazione dei farmaci sugli animali sono viva, e fu subissata da insulti di ogni tipo. Il più tenero era: speriamo che tu muoia, da parte di alcuni, come definirlo, lei li ha definiti nazi animalisti. Ebbene, che succede? Racconta Repubblica il libro di Caterina, viva grazie alle cavie, e ripartono gli insulti. Siamo su Repubblica, Cristiana Salvagni ancora torna, suo malgrado, nuovamente sotto i riflettori. Caterina Simonsen, che ora ha pubblicato un libro, nel libro tra l'altro si vede lei in copertina assopita a fianco proprio al muso di un bellissimo cane. Respiro dopo respiro, questo è il titolo del libro pubblicato da PM, e lei ribadisce che i test sugli animali non sono barbarie di persone senza sensibilità, ma un mezzo insostituibile per produrre farmaci sicuri e cercare di curare malattie gravi. Eccolo qui, ripartono gli attacchi. Quello più gentile scrive Repubblica: sei una finta malata, sei al soldo delle case farmaceutiche. Comprati una bella cassa di legno, magari di lusso, con i proventi del libro. Avanti, amici miei, ridete dei vostri problemi. Impareggiabile Milan, sono Attarus, Goldrake, principe del pianeta Flit. Ma quando sono sulla Terra sento sempre la sua rassegna stampa. Grande Actarus Goldrake, Romano Malaspina, lui un grandissimo abbraccio ci ha fatto questo regalo, è la voce vera, è lui, è Goldrake, Romano Malaspina. Allora, siamo qui con la rassegna stampa a raccontare ciò che succede sui giornali e la legge di stabilità, beh, il grande tema. Ieri giornata un po' tesa, nervosa, è arrivata finalmente sulla scrivania del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, non è arrivata però ancora quella necessaria bollinatura. Che è la bollinatura, dite voi? È la Ragioneria Generale dello Stato che deve dare la bollinatura, cioè dire ci sono le coperture, è tutto a posto, i numeri sono corretti. Ecco, questa bollinatura arriverà solo oggi. E quindi racconta Repubblica che Napolitano è rimasto un po' turbato dal fatto che gli sia stata presentata una legge di stabilità senza un controllo preventivo della ragioneria. Ma ieri Napolitano e Renzi si sono visti e Renzi ha detto arriverà oggi, o meglio lui ieri gli ha detto arriverà domani, è una questione di ore la bollinatura. Comunque Napolitano-Renzi focus sulla manovra, premier per oltre un'ora al colle, racconta Marco Rogari a pagina 3 del Sole 24 Ore, slitta la bollinatura della ragioneria, ci sono gli ultimi nodi tecnici da vedere. E poi c'è la grande partita con l'Unione Europea, racconta Ivo Caizzi sul Corriere della Sera a pagina 3 che proprio oggi gli euroburocrati della Commissione potrebbero spedire le lettere, per la verità lo dice il Financial Times come anticipazione, a Francia, Italia, Austria, Slovenia e Malta. Sono lettere con richieste di chiarimenti. Lì l'abbiamo detto varie volte, le due correnti sono il presidente entrante Juncker più morbido, il presidente uscente Barroso più duro nei confronti dell'Italia, tanto che è talmente duro Barroso che si vuole cancellare di fatto anticipatamente l'uscita di Barroso, cioè si vuole anticipare l'uscita di Barroso, siccome lui appare ancora l'uomo più severo nei confronti di Roma e Parigi. Italia e Francia stanno cercando di delegittimarlo politicamente perché dovrebbe lui come ultimo atto, o meglio la sua commissione, promuovere o bocciare la manovra italiana. Siccome si è capito che vorrebbe andare verso una bocciatura, ecco per esempio che Gianni Pittella, capogruppo degli eurodeputati socialisti, ieri in Europarlamento ha definito disastrosa la doppia presidenza Barroso e ha detto di aver accelerato e accettato tempi stretti. Vogliamo che la nuova commissione entri in forze il 1 novembre, non vogliamo che Barroso sopravviva politicamente. Insomma, vogliono farlo fuori prima del previsto, temendo che Barroso possa essere troppo severo nei confronti della manovra italiana. Secondo La Stampa, l'articolo di Carlo Bertini a pagina 3, Renzi è pronto a giocarsi la sua partita delicata con l'Europa, dicendo ai suoi: noi siamo tranquilli, andiamo avanti così e ci sarà bisogno di negoziare, lo vedremo. In ogni caso non oltre quella riserva che ci siamo ottenuti, facendo riferimento a quei 3,4 miliardi di euro che potrebbero consentire di sminare eventuali pretese della Commissione europea per il rispetto dei parametri del patto di stabilità. Dunque Renzi che attende, lui dice tranquillo, la partita con l'Europa. Anche pagina 2-3 di Repubblica è dedicata proprio a questo, cioè la partita con il Presidente della Repubblica Napolitano, ma anche il timore del giudizio dell'Unione Europea. Sul deficit faranno richieste eccessive. Questo è il timore dell'Italia, secondo quello che scrive Repubblica. Un Francesco Bei e Umberto Rosso raccontano a pagina 2 che Renzi rassicura, smussa con Napolitano, promette è questione di ore e risponde anche così al capogruppo Brunetta di Forza Italia, che aveva parlato di un consiglio dei ministri urgente in notturna per trovare ulteriori coperture. Risponde Renzi: non sapevo che avessimo nominato Brunetta sottosegretario alla presidenza del nostro governo. Comunque il tema ora si sposta più che altro sulla battaglia in Commissione europea. I pensionati sono contenti che la pensione, scrive la legge di stabilità, verrà pagata non più il primo ma il 10 del mese. Secondo i sindacati è una botta clamorosa, un buco pericolosissimo di 10 giorni per i pensionati, molti dei quali vedono l'affitto che scade il 5 del mese, molti dei quali devono pagare bollette, mutui e prestiti, molti dei quali si troverebbero il primo mese, gennaio, in cui è in vigore la legge di stabilità, con un buco di 10 giorni appunto, perché abituati a prendere il primo del mese la pensione, è chiaro che gestiscono questa pensione su quella data. Il primo mese c'è il rischio che questo rinvio di 10 giorni possa creare molti, molti problemi. E infatti il Corriere della Sera racconta: le pensioni pagate il 10 del mese è rivolta. Questo dal punto di vista dei conti, ma poi c'è un gran fermento politico. Cari signori, c'è un gran fermento politico. Secondo Claudio Cerasa sul Foglio, Renzi è tentato sempre più. Da che cosa è tentato? Ma ovvio, da andare alle urne, da andare alle elezioni, alla prossima primavera. Sapete che questi sono rumors di cui si parla, gli italiani frega poco, cioè gli italiani vorrebbero delle cose concrete. Sì, no, bianco, nero, però la politica è fatta così. E sul Foglio si racconta della grande tentazione, la tentazione, si chiama così, è il piano B di Renzi, l'arma di fine mondo, coincide con la parola elezioni, racconta Claudio Cerasa, che è uno ben informato del Partito Democratico, dice: ma secondo te, da Barbara D'Urso, su Canale 5, sulla rete di Berlusconi, sulla rete di Confalonieri, lui ci va così per caso, solo per farsi un po' di pubblicità? Ma apri gli occhi, su! E qui l'idea è questa: Renzi, che racconta sempre il Foglio, ne parla con i collaboratori, ne parla con gli amici, potrebbe voler capitalizzare i consensi che sente da sondaggi massimi in questi momenti nei suoi confronti. E poi è gran fermento, c'è Cuperlo che dice alla Leopolda: io forse ci farò un balzo, racconta Repubblica, lunedì. Ma Cuperlo, la Leopolda finisce domenica. Ah, finisce domenica, allora ci andrò l'anno prossimo. Ecco, questo è il dibattito: la Leopolda, non la Leopolda. La Leopolda è del PD, la Leopolda è un qualcosa fuori dal PD. La Leopolda, meglio non andarci, meglio andare in piazza con la CGIL, meglio andare a mangiare né alla Leopolda né alla piazza, ma a mangiarsi una pizza. Non lo so, fate voi, sta di fatto che il dramma di sabato è questo. Che fare sabato? Qualcuno mi ha scritto anche: c'è Real Madrid-Barcellona. Ecco, tenete conto anche di questa cosa. Invece, dall'altra parte, Berlusconi, che evidentemente anche lui sente questa tentazione di Renzi voler andare a votare, lo vede andare sulla sua TV da Barbara D'Urso. L'ultima volta era andato proprio lui da Barbara D'Urso, era stato, qualcuno dice, resuscitato politicamente da Barbara D'Urso. Allora che fa Berlusconi? Fa un'intervista al TG5, un'intervista pensata al mattino, poi disdetta al pomeriggio, racconta il Corriere, poi ripensata al pomeriggio e poi fatta alla sera. Tommaso Labate racconta, pagina 9, Berlusconi in TV critica il Premier ma non chiude al nuovo Italicum, e a chi gli propone, il giornalista del TG5, di sciogliere Forza Italia, dice: è una stupidaggine, sono tornato in campo perché Forza Italia torni a vincere, siamo all'opposizione di questo governo. Così anche sul Sole 24 Ore Emilia Patta racconta come Berlusconi sposi il bipartitismo. Chissà dove andrà sabato Mauro Meazza. Leopolda, piazza o pizza? Ah, buongiorno Alessandro, ci penserò. Piazza CGL, piazza anche CGL. Barcellona Real Madrid non mi sembra malissimo adesso. Ti vedo lì. No, birrona. Non vorrei poi farmi venire le vertigini, visto il livello tecnico medio espresso dalla mia squadra di riferimento, però insomma potrebbe essere interessante. Potrei cominciare a leggermi la delibera IMU, cosa dici? Ah, quella interessante, che ieri ci anticipavi. Quanti comuni hanno cambiato le regole? Sono più di 6.000, caro Alessandro, quasi 7.000, e così bisogna rileggersi tutte le delibere, una lettura edificante, si diceva una volta, così chiamava le fanciulle, ti ricordi, in altri secoli. Secondo me i commercialisti però non soffrono mai di insonnia, bisognerebbe fare un'indagine. Leggono sti regolamenti e in due secondi. Io temo che alle volte non vogliono addormentarsi perché temono che nella notte poi qualcuno modifichi le delibere ulteriormente. Anche. Tra l'altro, hai visto, a proposito di commercialisti, oggi nelle pagine di Norme e Tributi inauguriamo una rubrica che si chiama Fiscal View, che è dedicata un po' alle, diciamo, le stranezze della normativa tributaria. Questa volta parliamo di ACE, l'incentivo per la capitalizzazione, che è un incentivo fortissimo. C'è un, tutto un prezioso conto che ti fa vedere come ti agevoli fino all'1%, e quindi non c'è da sorprendersi se non ha avuto poi questo grande successo. Ma ti volevo, invece volevo parlare di aranciata, guarda un po', ma hai tirato a parlare di IMU e io volevo parlare di olio e aranciata, perché non so, forse non tutti sanno che dice una fortunata rubrica, non del Sole 24 Ore, che hanno votato definitivamente questo obbligo del 20% di succo d'arancia nelle aranciate, ma solo quelle che facciamo in Italia, perché all'estero va bene anche il 12%. Che dire, i produttori non sono molto contenti, anzi segnalano che così abbiamo fatto forse un gran piacere ai produttori esteri, però in compenso per l'olio sta arrivando l'obbligo di un tappo antirabbocco per le boccette. L'ho visto, per evitare, evitare il rabbocco nei ristoranti soprattutto. Diciamo che ci sono delle questioni, musica nuova in cucina, musica nuova sulla tavola, ecco. E poi musica nuova in Mediobanca. Hai visto questo ingresso dei cinesi in pompa magna in Mediobanca? Nelle pagine di Finanza questa mattina trovi tutti i dettagli di questa salita al 2,001%. Il motivo di questo superamento del 2 c'è, perché si tratta della rilevanza della partecipazione. Tutto questo e molto altro, caro Alessandro, sul Sole 24 Ore di questa mattina. Mi raccomando, quasi quasi leggo l'IMU, però. Ecco, bravo, leggi un po'. Così mi porto un po' avanti, non vorrei che i regolamenti di tutti i 6.000 comuni. Voglio un riassunto dettagliato per lunedì, grazie. Sono quasi 7.000. Vabbè, intanto comincio a leggere oggi Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, poi vediamo. Alessandro Milan ti mette le ali. Anche questo mi fa abbastanza ridere, quando lo mettiamo. Va bene, allora, come sapete c'è stato un grande dibattito per il sinodo straordinario che si è chiuso domenica, per la verità è una premessa per il sinodo ordinario che ci sarà tra un anno. Oggi fa abbastanza discutere l'intervista che Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera fa al Cardinal Camillo Ruini, ex presidente della CEI, ex presidente dunque dei Vescovi Italiani, che parla, era colui che aveva parlato dei diritti non negoziabili da parte valori non negoziabili da parte della Chiesa, e allora si riparte da lì per parlare di coppie gay, di unioni civili. Intanto sulla questione anche della comunione ai divorziati dice il Cardinal Camillo Ruini al Corriere della Sera: se il matrimonio rimane indissolubile e quindi continua a esistere, contrarre un nuovo matrimonio sarebbe un caso di bigamia, e avere rapporti sessuali con altre persone adulterio. Non si può pretendere che il matrimonio sia indissolubile e ci si possa comportare come se non lo fosse. Chiede Cazzullo regola immutata, prassi più elastica. Sarà questo il compromesso finale? È probabile. Nella messa di ieri si cita un salmo che dice: verità e misericordia si sono baciate. E poi, lei è d'accordo col Cardinal Scola che dice la Chiesa è in ritardo sull'omosessualità? Risponde Ruini: la questione del ritardo, dell'anticipo, dipende dalla direzione di marcia in cui si va. Quando da giovane sacerdote venivano a parlarmi e talora a confessarsi vari omosessuali, dicevano di trovare nella Chiesa un ambiente rispettoso e comprensivo. Di alcuni divenni amico. Adesso la Chiesa è considerata in ritardo perché continua a ritenere l'omosessualità non conforme alla realtà del nostro essere, che è articolata in due sessi dal punto di vista organico, psicologico e più in generale antropologico. Sarà il tempo a dire se, sostenendo questo, la Chiesa è in ritardo o in anticipo rispetto all'opinione prevalente. E ancora no alle unioni civili, se il contenuto è molto simile non serve poco, serve a poco cambiare il nome del contenitore, non parlare di matrimonio. E poi no alle nozze gay, riguardo al sindaco Marino che a Roma le registra, il sindaco ha diritto di sostenere le proprie posizioni ma non può per questo violare le leggi dello Stato. Insomma, il Cardinal Ruini, intervistato da Aldo Cazzullo, dice: non parlerò più di valori non negoziabili, ma l'onda libertaria è destinata a defluire. Dunque, la Chiesa non è indietro, ma forse è avanti sull'omosessualità. Certo, vicenda ben diversa che riguarda un uomo di chiesa è quella che racconta Sara Nicoli sul Fatto Quotidiano, pagina 15. L'accusa è nei confronti di un ex uomo forte di CL, così è definito, è anche tra i confessori di Roberto Formigoni. Don Mauro Inzoli, già capo del banco alimentare di CL, deve rispondere a Cremona di abusi su 40 minori. L'uomo ora rischia la galera. La storia viene raccontata dal Fatto Quotidiano a pagina 15 ed è stato già punito, racconta il Fatto Quotidiano, da Papa Bergoglio. A proposito di punizioni, che ne pensate allora del caso Pistorius? Vabbè, ne possiamo pensare senza aver visto niente del processo, non aver letto gli atti giudiziari. Così l'impressione è che 5 anni di carcere e poi, come ha detto il suo avvocato, farà 10 mesi, se è già in cella, 10 mesi di fatto per avere ucciso la fidanzata. Tutti i giornali la raccontano così, condanna mite, per esempio sul Fatto Quotidiano, ma il campione è finito, cioè si parla anche della fine della sua carriera. 5 anni a Pistorius, secondo il Corriere, ma potrebbe uscire tra soli 10 mesi. E anche Repubblica, 5 anni e fischi a Pistorius, salvato perché bianco e ricco, dicono alcuni. Ma in realtà 10 mesi e dovrebbe uscire. Invece c'è una vicenda che riguarda Rubinho, ex calciatore del Milan, okay, di altre squadre importanti, che è ancora indagato a Milano, raccontano i vari giornali. Il Giornale lo mette con un'intera pagina, pagina 17, indagato per stupro. La vicenda riguarda una diciottenne che avevano conosciuto al ristorante, una brasiliana con la quale poi Rubinho e altri due amici si erano appartati, e questa ragazza 6 mesi dopo ha denunciato: sono stata violentata da tutti e tre. Risulta indagato a Milano, la violenza sarebbe consumata nel retro di un ristorante con lui due amici. E tra l'altro ricorda il Giornale che già nel 2009 Rubinho, quando era in Inghilterra, fu arrestato con le stesse accuse di violenza sessuale. Sul Giornale, a proposito di calcio, amici romanisti, vincete il campionato, mi raccomando. Certo che se si deve vedere dalla seconda partita, la prima era andata bene, ma la seconda in Champions League, ragazzi, il sacco di Roma, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport a tutta pagina, 7-1, o meglio 1-7 Roma Bayern Monaco. È vero, è il Bayern Monaco, però vabbè, 1-7. Ma siamo al momento conclusivo. La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Io l'ho letto anche con affetto, l'ho letto con passione, con amore, con vicinanza, con empatia. La storia di Concetta. Mezza pagina sul Corriere della Sera raccontata da Mario Gerevini. E chi è Concetta? Concetta, 24 anni, voleva entrare alla Guardia di Finanza, ma c'era un limite di altezza di 1,60 m. Lei, 61, non era 1,60 m, ma dice no! No, è andata al TAR, ha vinto, si è fatta rimisurare e risulta 1,61 m e 3 mm, e ce l'ha fatta, e il Corriere gli dedica mezza pagina. Ma Concetta, chi se ne frega! 24 mattino. Siamo qui, ben ritrovati cari ascoltatori da Alessandro Milan, sono le 8:18, lunedì il Sole 24 Ore ha pubblicato una classifica di quelle che, come dico io, fa tenere le mani ben strette sul volante dalla rabbia se state guidando, perché la classifica riguarda, se volete, le tasse dimenticate dai comuni, se volete chiamarle così, diciamo le mancate riscossioni degli enti locali. L'Italia, si scopre anche da questa classifica, non è tutta uguale, questa forse già lo sappiamo, ma non fa altro che ricordare questa classifica. Per esempio, perché a Reggio Emilia riescono a riscuotere l'87,1% delle tasse, o a Bologna l'86%, a Bergamo e Trento l'85%, a Lecco l'84,8%, e cito le prime 5 posizioni, e invece a Vibo Valentia riscuotono solamente il 43,5% delle tasse, molto meno della metà, o a Trapani il 44,4%, a Palermo il 45,4%, a Siracusa il 46,1%. Perché? Sono più bravi a riscuotere le tasse a Reggio Emilia? Oppure a Reggio Emilia ci sono delle persone che hanno un senso civico dello Stato forse più alto di quello che c'è a Trapani? Il dato è di fatto è che l'Italia è divisa in due, lo dicono i numeri in base a questa classifica. Al nord mediamente si paga, al sud meno. Ci sono delle eccezioni, se volete ve le racconterò durante la trasmissione. Comunque io mi metto anche nei panni del cittadino di Vibo Valentia che paga fino all'ultimo centesimo le sue tasse e che probabilmente vede che un comune è disastrato dal punto di vista delle entrate e che non gli può garantire i servizi. Che è cornuto e mazziato perché paga le tasse, i suoi 6 cittadini su 10 di Vibo Valentia non lo fanno e vede quindi un comune magari non in grado di garantirgli gli autobus. Comunque parliamo di tutto questo, se volete anche col vostro contributo 800 24 00 24, ci chiamate, ci dite dalla provincia a cui chiamate, così dal comune vi diciamo anche a che punto siete in classifica. Voglio salutare Luca Antonini, costituzionalista e presidente della commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Buongiorno professore, eccoci qua. Così come voglio salutare l'assessore al bilancio di Biella, Giorgio Gaido. Assessore, buongiorno. Buongiorno. Lei, assessore, si è inventato un metodo, visto che, come si dice, se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Quanti non pagavano? Lei, assessore, credo da 100 giorni, no? 100 giorni. 100 sì. giorni. Ha scoperto che a Biella c'era qualcuno che non pagava, può succedere, le tasse comunali. E quindi lei che ha fatto? Ha iniziato a chiamarli al telefono. Sì, diciamo che sono partito da un elenco delle situazioni morose per la TIA, cioè la tassa rifiuti dello scorso anno, e sono partito dai contribuenti che avevano un valore più alto dei 2-3 mila euro. Ho fatto una novantina di telefonate, si tratta quasi sempre di attività commerciali. E com'è andata? Ma è andata bene, io guardate, non penso di aver inventato nulla, ho usato, penso, il buon senso, perché le motivazioni, lei ne ha citate diverse, può anche semplicemente darsi che uno non abbia ricevuto la bolletta, perché i servizi postali ultimamente non sono stati impeccabili, può averla dimenticata, può aver avuto mille problemi di vario genere, c'è la crisi che attanaglia, quindi li ho contattati avendo anche così messo nel conto qualche vaffa, si può dire, noi in radio. Ecco. È arrivato qualche vaffa? No. Devo dire, lei parlava prima di senso civico, tutti mi hanno ringraziato, devo dire la risposta è stata ottima, molti mi hanno spiegato la situazione, che è una situazione difficile, li ho invitati a rateizzare perché il comune ha previsto questa possibilità da tempo e soprattutto ho accennato che in caso contrario, essendo una tassa, passando alla riscossione coattiva ci sarebbe stata una maggiorazione del 30% secca, sì, più gli interessi di mo. Tra l'altro voglio ricordare in questa classifica Biella è al 22esimo sì. posto, se è abbastanza anche in alto, cioè riscuotete mediamente il 76,6%. E siamo calati molto negli ultimi tempi, una volta eravamo ai vertici. Biella era un'isola felice, non lo è più. Questo forse la crisi ha inciso non poco. Però devo dire che se non sbaglio, da calcoli del Fatto Quotidiano, lei ha fatto un'intervista, avrebbe recuperato, o meglio, avrà recuperato la promessa di pagare 500.000 euro per il comune. Quindi lei questo avrebbe portato a casa facendo telefonate e dicendo bisogna pagare le tasse. Certo, è un metodo, come dire, che lei si è inventato, è un metodo un po' strano, che un assessore prenda il telefono e chiami non è proprio il suo ruolo, ecco, se vogliamo dire così. Sicuramente sì, però ritengo che c'è questa disaffezione, lei prima l'ha citata, no? La politica sembra lontana, la politica deve andare in mezzo alle strade, deve contattare, deve anche verificare, io volevo verificare perché questo sistema di riscossione non funzionasse, ho scoperto anche alcuni aspetti marginali ma che mi danno un quadro complessivo, e quindi ho ritenuto giusto intervenire sul pezzo, come si suol dire, fare tanti passaggi, a volte il metodo diretto è quello più efficace, avevo per altri motivi un po' di tempo in aggiunta, in me c'era mia figlia in ospedale, io molte di queste telefonate le ho fatte da una camera di ospedale sorvegliando mia figlia e mettendomi lì con pazienza, perché ogni telefonata durava mediamente dai 10-15 minuti. Accidenti, prima di riuscire a convincere. No, perché tutti mi volevano spiegare la motivazione. situazione, e questo è stato utile. La maggior parte, soprattutto nel settore del commercio, la spiegazione è sempre la stessa: la crisi, l'aumento delle tariffe ha messo un po' in ginocchio questa È chiaro, perché poi magari parleremo anche della questione dell'aumento delle tasse, che per molti è una delle cause perché non si riesce a far fronte al pagamento. Però intanto, professor Antonini, eccoci qua, dalla classifica apparsa sul Sole 24 Ore, comunque non so se l'ha vista, se ce l'ha presente nel suo complesso, comunque sa benissimo il tema che stiamo affrontando, che cosa possiamo evincere, cosa ci può dare questa classifica come primo commento? Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Io inizio dicendo una cosa: Tocqueville, un grande teorico della democrazia, diceva che questa, la democrazia, inizia con la pubblicazione dei bilanci sulla casa comunale, no? Questa è la democrazia. Allora, la fotografia che ha fatto il Sole 24 Ore mostra un dato abbastanza sconfortante: in alcune parti d'Italia c'è la democrazia, da altre parti no. Quindi siamo un paese molto duale. Che la capacità di riscossione sia bassa dipende da fattori strutturali, e allora possiamo metterci dentro tante cose: possiamo metterci la continua rimodulazione che c'è stata delle imposte, possiamo metterci dentro i tagli, però l'assessore che abbiamo appena sentito dimostra che la democrazia anche a livello comunale, e questo il sale, diciamo, anche del federalismo, la vicinanza ai cittadini, funziona anche per un'iniziativa politica, cioè per un'iniziativa che viene presa e porta a una maggiore prossimità con i cittadini che amministri. Da alcune parti evidentemente questo non c'è, no? Questo dimostra, cioè, noi siamo un paese duale, un paese dove in certi punti hai un 30% di riscossione, sì. Vuol dire che non c'è né senso civico né senso politico. E ci scrive un ascoltatore: il metodo dell'assessore è molto americano, non lo so se possiamo definirlo così, professor Antonini, è americano oppure è semplicemente un metodo di molto pragmatico e anche, se vogliamo, italiano, se lo si vuole fare. Allora, la frase di Tocqueville che ho citato è relativa alla democrazia in America, quindi probabilmente è anche americano, ma questo è il sale di un sistema municipale. La nostra tradizione è tutta basata sul municipalismo, però un municipalismo che da alcune parti funziona e da alcune parti non funziona. Allora, su questo si può fare molto, e devo dire che è in attivo un provvedimento che metterà fine a questo gioco di inserire, perché queste tasse non riscosse venivano inserite in un fondo di residui attivi che di fatto lasciava i conti del comune in ordine, fintamente in ordine, e permetteva le spese. Allora, adesso è stato varato, con un lavoro proprio molto molto capillare che è stato fatto anche all'interno della commissione che presiedo, che ha coordinato un po' tutto questo lavoro insieme alla Ragioneria Centrale dello Stato e all'ANCI, è un lavoro che ha portato alla armonizzazione dei sistemi contabili. L'armonizzazione dei sistemi contabili, che entra in vigore l'anno prossimo, prevederà che le imposte non riscosse vanno accantonate in un fondo apposito di crediti di dubbia riscossione, sì, in modo che non possano più legittimare la spesa, quindi mettere da parte, perché sennò vengono messi a bilancio delle imposte che non prenderanno mai, e diventa la sola, poi alla fine le fanno figurare come delle entrate fittizie, perché poi sono fittizie di fatto e spendono in nome di questo. E poi si alza il coperchio della pentola e ci si accorge che il comune è disastrato, perché l'attivo era fatto da crediti inesigibili. Ma ribaltando, professor Antonini, è giusto, e ci sono gli strumenti, perché a Reggio Emilia, perché sono bravi, perché hanno senso civico più alto, non lo so, sono in testa a questa classifica, ci sono gli strumenti che danno la possibilità a quelli di Reggio Emilia, ai comuni per esempio, di spendere di più in virtù di questo? Sicuramente entrando in vigore questo meccanismo possiamo farlo, ma poi c'è anche, per esempio, l'Emilia Romagna è stata una regione modello da questo punto di vista per la lotta all'evasione, perché in Italia abbiamo 8.000 comuni, e questo da un lato è un problema perché sono troppi e spesso sono di dimensioni piccole, ma se questi sono anche dei sensori molto vicini al territorio. L'Emilia Romagna ha attivato, con l'Agenzia delle Entrate dell'Emilia, col direttore Antonino Gentile che c'era a suo tempo, un patto anti-evasione. Quindi segnalando dati, per esempio il comune può sapere se una casa è affittata oppure no, perché lo vede dal controllo delle bollette del gas e dell'energia elettrica, e quindi ha una serie di dati che, incrociati con quelli dell'Agenzia delle Entrate, permette per esempio di combattere l'evasione. Lì hanno introdotto un sistema molto avanzato, per cui i fondi stati recuperati per l'evasione sono dati alle imprese che non licenziavano, sono dati per fare asili nido, quindi c'è stato un patto antievasione che è stato estremamente virtuoso: pagare tutti per pagare meno, cioè sono state recuperate risorse che altrimenti andavano perse. Io vorrei tornare per un attimo da Giorgio Gaido. Lei, assessore a Biella, lo consiglierebbe questo metodo anche ad altri amministratori comunali? Sa perché glielo chiedo? Dopo la pubblicità avremo ospite anche il sindaco di Vibo Valentia, che chiude questa classifica. Cosa consiglierebbe di fare? Perché lei l'ha fatto, ha recuperato 500.000 euro per le casse comunali. Sì, beh, non ancora, perché arriveranno, certo. Hanno promesso di pagare. Rateizzate, Diciamo di sì. Beh, io mi aggancio a quello che ha detto il professore, e il comune di Biella è già in questa sperimentazione, quindi noi già svalutiamo del 30% i crediti di dubbia esigibilità, perché siamo già entrati nella riforma come comune campione, mi pare che in Piemonte siamo in 2 o in 3. E quindi per noi è di fondamentale importanza anche abbattere il monte, lo stock dei crediti di dubbia esigibilità, perché per noi diventa un impegno di spesa. Poi non entro in tecnicismi, perché penso che sia difficile per gli ascoltatori seguire, no? il ragionamento. Sì. Però per noi, ecco, avere molti crediti ci penalizza notevolmente sul fronte della spesa. Concordo dicendo che questo sistema dovrebbe innescare dei percorsi virtuosi, e qui parlo come revisore di enti locali, anche che è una delle mie attività, il discorso dei residui attivi è sicuramente un aspetto veramente delicato, perché molti bilanci sono basati su questi residui attivi, tasse che tanto si sa che non si mettono a bilancio, non sono più esigibili, come le multe, esatto, per esempio. Esatto. Allora, ci scrive un ascoltatore: commissariare tutti i comuni dove la riscossione è inferiore al 50%. Poi non si capisce perché sopra il 50% dovrebbe essere buono, perché al 52%, caro ascoltatore, è una buona riscossione. A parte che sono pochi i comuni sotto al 50%, sono 6 o 7 capoluoghi. Comunque, ci scrive anche un ascoltatore: aveva ragione Metternich, l'Italia è un'espressione geografica. Vabbè, con questa considerazione magari ripartiamo tra un attimo, avremo il sindaco di Vibo Valentia, e se volete anche chiamateci 800 24 00 24. Che ne pensate di questa Italia in cui in alcuni comuni capoluogo non si riscuote neanche il 50% delle tasse? 24 mattino. Allora, siamo qui alle 8:38 minuti a raccontare di che cosa? Di comuni dove non si riescono a riscuotere le tasse. Siamo con l'assessore al bilancio di Biella, Giorgio Gaido, e con professor Antonini, Luca Antonini, che presiede la commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Prima di presentare un altro ospite, vorrei, proprio siccome è in coda alla classifica, l'abbiamo citata, dare la parola a Roberto, ci chiama da Vibo Valentia. Proprio Roberto, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti. Come poter esprimere il concetto con parole semplici, ma già il fatto di venire fuori a livello nazionale in una situazione di questo genere avrebbe comportare, perlomeno da parte della giunta, totalmente fallimentare finora, la rimozione di qualche dirigente, magari la rimozione di qualche assessore, cioè fare degli atti concreti, ma stiamo parlando di un paese che non esiste più, invaso dalla spazzatura, con un corpo dei vigili urbani assolutamente assente, e con 800 migranti che arrivano soltanto ieri sera nel porto di Vibo Marina, per la terza volta sono sbarcati i migranti. Cioè è sembra essere, chiamo paese perché alla fine è un grande paese, non possiamo definirla una città, completamente persa. Perso. Allora, e la consiliatura attuale, le assicuro che è stata una vabbè, questo è il suo giudizio politico, è chiaro, Roberto, ma siccome abbiamo il sindaco, me lo lasci salutare, Nicola D'Agostino, il sindaco dal 2010 di Vibo Valentia. Buongiorno sindaco, eccoci buongiorno, qua. Vabbè, questo era il giudizio impietoso di un ascoltatore che la accoglie, ma il giudizio impietoso è anche di questa classifica. Che effetto fa essere all'ultimo posto come riscossione delle tasse al 43,5%? Beh, non è un bel effetto, chiaramente i numeri sono numeri, non si commentano un po' da soli, però se i numeri si riguardano un pochino nella loro interezza, probabilmente quel fare impietoso dell'ascoltatore, abbastanza noto per essere molto critico nei confronti dell'amministrazione, forse potrebbe essere... Che è noto perché lo conosci, non so, l'ha chiamato come Roberto da Vibo Valentia. Dalla voce capisco che... Ah, capisci. Scrive spesso sui giornali criticamente, cioè è assolutamente in modo legittimo, ci mancherebbe altro, però è critico nei confronti dell'amministrazione, ripeto, legittimamente, però se parliamo di questo dato è un dato che riflette una media di 5 anni di riscossione dei tributi, che va dal 2008 al 2012. E allora io, se devo parlare della mia amministrazione, dove addirittura qui si dovrebbero mettere i consiglieri, giunte, eccetera, all'ascoltatore, ma un po' a tutta Italia, dico sì, ma io sono arrivato con una riscossione nel 2008 al 37%, quindi ben al di sotto della media, e dico ma meno male che sono arrivato, perché 2011 e 2012 la riscossione è salita al 43,5%. 48 e poi 56, quindi però le chiedo questo sindaco, guardi, il 2013 è 66%, quindi se quindi nel futuro diciamo la classifica migliorerà, insomma si sta migliorando, diciamo, è migliorata già, cioè voglio dire, no, al di là della classifica il dato anno per anno è andato sicuramente significativo, se vogliamo giudicare gli amministratori sui dati anno per anno e non partendo dal 2008 dove facevo ben altro nella vita, evidentemente io prendo il dato del 2008. Però l'assessore Giorgio Gaido, che è qui che l'ascolta, assessore di Biella, dice: io personalmente ho fatto 15 ore, se non sbaglio ho letto sul Fatto Quotidiano, chiamate, telefonate e soprattutto commercianti che non pagavano, e ho convinto a pagarli, ho ascoltato le loro ragioni, le loro motivazioni, alla fine ho portato a casa 500.000 euro per il comune di Biella, li porterò, sono rateizzati, eccetera. Voi fate qualcosa del genere? Cioè voi chiamate le persone? No, non chiamiamo le persone, abbiamo fatto molto di più in termini economici, con tutto il rispetto ovviamente per Biella, con una realtà sicuramente diversa. Noi abbiamo portato 6 milioni di euro in cassa in più, perché siamo passati, ripeto, forse non sono stato chiaro, dal 38% al 66%, abbiamo aumentato la base imponibile del comune di un 15% di utenti sconosciuti al comune, abbiamo messo le nostre energie migliori in quello che più era un lazzaretto, l'abbiamo fatto diventare un ufficio con 4 centri di responsabilità, e quindi se vogliamo andare nel dettaglio abbiamo fatto una serie di iniziative, abbiamo mandato 30 ruoli in discussione di anni precedenti al 2010, il che significa che sicuramente i cittadini non possono accogliere con favore una cosa del genere, però erano ruoli che trovavamo nei cassetti, nei cartoni, e non le dico che... Insomma, avete fatto... Ma l'ufficio era davvero paradossale, come ha detto... Ma però scusi sindaco, la prendo per buona e le vorrei fare interloquire anche col professor Antonini. Professor Antonini, il sindaco D'Agostino di Vibo Valentia ci sta dicendo che adesso la situazione è migliorata, io ci fidiamo, voglio dire, i dati vuol dire che la classifica sarà migliore nelle prossime medie nazionali. Il dato di fatto però inequivocabile è che esistono due Italie, come lei ha detto. Che cos'è, benzina sul fuoco di chi vuole alimentare su questo tipo di discorsi? No, ma il dato mette in evidenza due aspetti. Primo, che viene gestito molto male tutto l'aspetto della finanza locale, anche a livello statale. Pensiamo alla vicenda dell'IMU. L'IMU è stata cambiata 4 volte in 2 anni, e in questi 2 anni ci sono stati 10 decreti legge che hanno cambiato aspetti secondari. E ancora oggi sul Sole si legge che 6.800 comuni l'hanno cambiata. Appunto. Allora, noi stiamo creando il caos fiscale peggiore della storia della Repubblica Italiana. Ma perché non si può gestire così? L'anno scorso i comuni provavano approvavano i bilanci preventivi al 30 novembre, cioè quello che dovresti approvare all'inizio dell'anno lo approvavano al 30 novembre perché non avevano certezza delle risorse che avrebbero avuto, perché cambiare l'imposta principale 4 volte in 2 anni e 10 decreti legge che cambiano aspetti, per cui prima c'è la prima casa, poi non c'è la prima casa, poi certe cose sono deducibili, altre poi no, 10 decreti legge vuol dire il caos fiscale. Allora, da un lato c'è uno Stato che sta gestendo malissimo questa partita della finanza locale, ci vorrebbe stabilità, i comuni tedeschi ce l'hanno scritto in Costituzione, quali sono le imposte che spettano loro, per cui sanno con certezza e regolarità le entrate che avevano, i comuni italiani non ce l'hanno. Secondo, l'altro aspetto su cui lo Stato a mio avviso è latitante, un ascoltatore evocava i commissariamenti, sì. Spesso noi non facciamo commissariamenti e continuiamo a dare soldi con ripiani fatti a piedi lista ancora recentissimi a situazioni disastrate. Lo Stato dovrebbe essere, nell'ambito di un processo di decentramento, ci vuole uno Stato in grado di coordinare, lo Stato italiano non coordina, crea caos e per cui tratta i virtuosi come gli inefficienti. Adesso siamo all'ennesimo taglio lineare che viene fatto su regioni e comuni, per cui i virtuosi, cioè quelli come abbiamo sentito prima l'esperienza dell'assessore Di Biella, vengono trattati come gli inefficienti. Bisogna incominciare a distinguere, cioè se sei virtuoso non vieni tagliato. Perché da tagliare un virtuoso vuol dire tagliare i servizi poi ai cittadini o far aumentare la pressione fiscale, se sei inefficiente però devi essere commissariato. Però io, professore, mi metto sempre nei panni, l'ho citato a proposito nella premessa, del cittadino, ho detto di Vibo Valentia perché era l'ultimo in classifica, che paga fino all'ultimo centesimo le tasse e che proprio si trova, come dire, che è colpa mia perché sono di Vibo Valentia, che a fianco a me ci sono quelli che non li pagano. No, ma è proprio per questo motivo, perché questa è una violazione palese del principio d'uguaglianza, che è un principio costituzionale, lo Stato in questi casi dovrebbe intervenire con dei commissariamenti. Invece lo Stato spesso chiude gli occhi in queste situazioni e poi ripiana il comune che magari non ha le entrate. Dico, è successo con Napoli, che ha una capacità di riscossione bassissima ed è stato oggetto di un piano di un prestito trentennale per riuscire a coprire i buchi. Capisce che continuiamo a dare soldi a amministrazioni che non fanno nulla per recuperare le risorse che hanno sul territorio e creano queste disuguaglianze. Allora, lo Stato deve commissariare. Certo? Andiamo al traffico, poi ci sono anche tanti ascoltatori, Vincenzo da Rimini, Massimo da Monza, Sergio da Varese, i nostri ospiti. 24 allora, mattino. Vincenzo da Rimini è al 71,1% di riscossione, siete a metà classifica. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Mila e buongiorno agli ospiti in studio. Io sono rimasto colpito dall'assessore Di Biella, soprattutto per il suo metodo adottato, che dovrebbe essere un metodo di esempio a tutti gli amministratori locali, perché l'assessore Di Biella si è veramente, diciamo, responsabilizzato della sua carica e ha adottato un ottimo sistema per cercare di convincere quei cittadini che abbiamo ascoltato che effettivamente sono morosi. Quindi ho ascoltato anche il discorso che ha fatto il sindaco, credo, di Vibo Valentia, sì, sì, dove praticamente siamo sempre alle solite, ecco perché l'Italia è sempre divisa in due, sono sempre delle risposte politiche e basta. Questi basta che aumentano dello 0, e sembra di aver fatto chissà che cosa. Beh, insomma, in realtà ci dice che adesso sono al 66% di riscossione. Va bene, ma siamo sempre al di sotto delle medie, l'Italia è sempre divisa in due così, sì, ognuno cerca di rifugiarsi su quel poco che fa. Diciamo, lui dice qui sono da 2 anni, prima era al 30, 38, adesso siamo al 66, se queste sono le cifre, e ripeto, ci fidiamo sulla carta, ecco, la prendiamo in parola sindaco, sta migliorando. Comunque Vincenzo dice un plauso all'assessore Gaido, che è qui che ci ascolta sempre. Vorrei andare a Varese da Sergio. A Varese siete al 63° posto, 67,3% di riscossione. Varese, Sergio, buongiorno. Buongiorno, in realtà chiamo dalla provincia di Varese. Vabbè, dici, io volevo solo... È per capoluoghi, dica. Certo, volevo sottolineare il fatto che questi dati non sono solo, almeno questo è quello che ritengo io, è un problema di incapacità, frutto di incapacità. In alcuni casi ritengo siano anche volontà politica per avere consenso, quindi gestire la cosa pubblica in questo modo solo per avere un consenso politico. Cioè, per avere il consenso è non ti faccio pagare le tasse. Chiaro, io ho avuto un'esperienza in un'azienda municipalizzata, sono entrato e c'erano i fornitori che erano pagati, i fornitori chiaramente amici e gli incassi non c'erano, addirittura c'erano clienti che veniva, gente che occupava case popolari, che veniva e diceva nella passata gestione venivo per pagare, dicevano lascia perdere, torna. E non male questa lettura, caro Sergio. Assessore Gaido, la giro a lei questa lettura, sarebbe un consenso politico, e proprio lo chiedo a lei che invece ha fatto l'esatto contrario, evidentemente chiudere gli occhi di fronte alla situazione, mica telefonare alle persone. Beh, può darsi, può essere. Io non voglio dubitare della buona fede di altri colleghi. Io ho fatto un ragionamento completamente diverso. Il mio obiettivo, e l'abbiamo detto quando ci siamo insediati come giunta, è quello di favorire la creazione di lavoro, di mantenere i conti in ordine e possibilmente di abbassare l'imposizione, che è molto elevata. Se non pagano tutti, questo è un obiettivo irraggiungibile. Lei è d'accordo quando il professor Antonini dice commissariare quei comuni dove evidentemente invece di ripianare sempre tanto paga pantalone, che poi siamo sempre noi, intervenire, responsabilizzare e commissariare se del caso? Sì, perché poi ecco, io punterei molto sui costi standard, ad esempio. Ci sono delle sperequazioni a livello locale enorme, ad esempio sul numero dei dipendenti. Noi avremo bisogno di maggiori dipendenti e non li possiamo assumere, e poi scopriamo che altre realtà con popolazione uguale alla nostra, con attività economiche decisamente inferiore, hanno anche il doppio o il triplo, se non è dei dipendenti. È chiaro che è una creazione fittizia di lavoro, è un assistenzialismo che però non ci porta lontano. Non porta niente, i costi standard, no? Tra l'altro, tra un attimo magari ci arriviamo, è il lavoro del professor Antonini e anche un po' il cruccio e la disperazione perché non si riescano ad applicare. Prima però, sindaco d'Agostino, torno da lei, Vibo Valentia. Insomma, tutto bene, che dobbiamo fare? Cioè, alla prossima classifica vi vedremo volare in alto, perché lei sta riscuotendo. Allora, intanto forse i tempi rapidi degli interventi non mi hanno consentito, o non sono stato capace, diciamo, di esprimere al meglio quello che volevo dire. Cioè, qui siamo passati da un 38% a un 66%, quindi sono 30 punti, non è uno zero virgola. D'altra parte, il dato del 2012, che è nella media dell'anno 2012, è 56, ed è vero, sono d'accordo con il radioascoltatore Sergio della provincia di Varese. Qui non sono stati mandati i ruoli, io ho detto ho dovuto mandare 30 ruoli ante 2010, perché la politica precedentemente, no, per consenso probabilmente, non ha voluto disturbare i cittadini. Però guardi che al sud è tutto così, cioè lei che effetto le fa da cittadino, da primo cittadino della città del sud, vedere che tutte le capoluoghi del sud è un disastro, cioè non c'è senso civico al sud nei confronti delle tasse. Allora, non c'è senso civico solo nei confronti delle tasse, paghiamo forse anni di, chiamiamole, di arretratezza, se vogliamo, culturale per quanto riguarda alcuni temi, e il tema dei tributi è uno di questi, perché tanto pagava pantalone, tanto arrivavano i trasferimenti dallo Stato, e quindi il problema non si poneva. Tanto è successo nel mio comune, vi erano dei fondi vincolati che venivano utilizzati per pagare gli stipendi, e quindi il problema è stato accantonato. Noi abbiamo fatto un miracolo, io le vorrei far conoscere il mio assessore dei tributi, che è un giovane, un'eccellenza calabrese, che noi abbiamo tirato fuori dall'eccellenza e l'abbiamo messo a fare l'assessore. Lui è un altro assessore, quindi si parla spesso di eccellenze, ma se poi non vengono coinvolte nell'amministrazione pubblica, evidentemente non servono a nulla. Non li abbiamo mandati fuori a lavorare, li abbiamo chiamati all'interno del comune, e il mio assessore Fraso, anche lui, come dire, opera di persuasione all'interno dell'ufficio, intanto per avere un ufficio che sia degno di questo nome, e per recuperare un po' di soldi. Per avere, abbiamo mettato sulle utenze di 3.600 utenze, sono passate da 12.000 a circa 16.000 utenze, quindi avevamo anche gli sconosciuti. L'incidenza dei residui attivi è passata in due anni dal 59% al 28%, abbiamo eliminato questi residui. Ma è chiaro, e quindi insomma, questi sono dati che un domani vi premieranno. Lei dice la strada è stata segnata. Sui costi standard, professore, le prometto che torneremo la prossima volta, non c'è tempo, so che è il suo cruccio. Ringrazio tutti per essere stati con noi e vi ricordo l'appuntamento a domani alle 6.30 puntuali. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.